Stefano Anelli, benvenuto a questo primo aperitivo culturale che proviamo a fare come Società Storica Locarnese. Classe 82, archivista all'Archivio di Stato del Canton Ticino, socio della nostra società, ti occupi di documenti ottocenteschi. Esatto, sì, buongiorno a tutti. Effettivamente sì, la mia occupazione principale sono i documenti amministrativi, soprattutto dell'Ottocento, più i fondi di famiglia, sempre dell'Ottocento, anche se ogni tanto capitano dei documenti più antichi, che possono risalire fino a fine 500, inizio 600. Parlando di fondi di famiglia, ce n'è uno che dovrebbe essere l'oggetto della conferenza che continuiamo a rimandare, che è il fondo Peri. Esatto, sì, il fondo della famiglia Peri di Cavigliano che è giunto in archivio di Stato in più volte, in varie parti, e di cui ho proceduto al riordino e alla catalogazione negli anni scorsi e che ora sto esaminando e studiando. Dici un po' quali sono le particolarità di questo fondo di famiglia. Allora, innanzitutto è interessante perché riguarda principalmente un nucleo familiare e diciamo soprattutto tre generazioni che si spalmano tra la fine del Settecento e l'inizio del Novecento. E quello che è molto interessante è che sono essenzialmente delle corrispondenze di essenzialmente due persone, Alberto Peri, che è l'ultimo membro della famiglia di queste tre generazioni, suo padre Pietro Antonio e suo nonno Giuseppe Maria. Ed è interessante soprattutto perché Alberto Peri è emigrato negli Stati Uniti, dove ha vissuto quasi ininterrottamente per 40 anni. E durante questo periodo ha scambiato una ricca corrispondenza col padre Pietro Antonio e quello che è molto interessante è che abbiamo sia le lettere che Alberto ha scritto al padre che le risposte di Pietro Antonio, quindi è una corrispondenza completa e questo è un fatto piuttosto raro perché spesso si ha solo una delle due Delle serie di persone, lettere, esatto, o quelle inviate o quelle ricevute. esatto. E adesso senza entrare troppo nei dettagli, perché poi non vogliamo scoprire tutte le carte di questo fondo Peri, ma raccontaci un pochino, casomai, qualche episodio, qualche lettera interessante, qualche aneddoto da aperitivo culturale, insomma. Beh, diciamo che Alberto Peri era un personaggio con interessi multipli, già era un uomo molto furbo, aveva un senso degli affari abbastanza affinato, quindi dopo la sua emigrazione in California, quindi in zona San Francisco, dopo qualche anno di peregrinazione con vari mestieri, si è stabilito a Marysville, che è una cittadina se non sbaglio, un centinaio di chilometri a nord di San Francisco, e lì ha aperto questa fiorente attività non solo di maestre di danza, ma anche di confezione di sorbetti, vari confetti, eccetera, eccetera. Delle attività anche un po' Un po' originale varie, originarie, un po'. rispetto appunto alle attività, alle occupazioni svolte da tanti emigranti ticinesi in California. È vero che Alberto Peri si è lanciato in attività piuttosto originali. E oltre a quello, nella sua corrispondenza emergono anche altre passioni, come ad esempio la passione per la caccia, la passione per il ballo, che l'ha poi portato ad Farne un appunto fare un lavoro. lavoro, un grande interesse per la politica, infatti è stato anche per diversi anni membro del Gran Consiglio ticinese, Sì. In sempre però abitando in California, California, esatto. e poi negli ultimi anni della sua vita anche una passione per la fotografia. Una passione che è arrivata a noi tramite il fondo. Allora, il fondo è ancora conservato il fondo fotografico di Alberto Pre è ancora conservato dai discendenti della famiglia, però ho avuto il piacere di poter vedere delle scansioni delle lastre, ci sono delle foto veramente interessanti, non solo molte foto di famiglia, quindi dei suoi figli, eccetera, eccetera, ma anche foto un po' della regione di Carigliano, Nelle della terre di Carnese. Piedemonte, quindi sì. Perché forse quello che ho dimenticato di dire è che sul finire della sua vita lui è rientrato dalla California e si è installato a Carigliano, dove negli anni precedenti si era fatto costruire una villa che esiste ancora oggi, la Sì. Villa Peri, che è sulla strada che sale verso Entragne, le Centovalli. E quindi sì, diciamo, lui ha molti interessi che appaiono appunto in filigrana nella sua corrispondenza, anche se l'oggetto principale della sua corrispondenza rimane comunque l'amministrazione Della famiglia. Sì. della sua attività in California, l'invio dei soldi qui in Svizzera e poi verso la fine anche la costruzione della villa. Della Villa Peri. Esatto, in questo caso la corrispondenza non era col padre che era già deceduto, ma con il fratello Egidio, che lui era qui in Svizzera a quel momento. Corrispondenza col fratello, mi raccontavi lettere anche abbastanza colorite, paternalistiche, un rapporto un po'. Diciamo che i due fratelli hanno due caratteri molto diversi, e diciamo che se da una parte abbiamo un Alberto Peri molto rigoroso con i suoi affari e molto, molto, diciamo, preciso anche nella tenuta dei conti, e anche molto esigente verso i suoi collaboratori, corrispondenti. Sì. E diciamo, dall'altra parte abbiamo Egidio, che lui è stato un po' più, ha fatto vari tentativi per cercare di comunque Emulare il recarsi fratello, e sì. emulare il fratello. Infatti anche lui è partito in California, hanno lavorato insieme così, ma al momento, all'inizio degli anni 90 dell'Ottocento, Egidio era tornato in Ticino e era stato incaricato da suo fratello di fare da supervisore alla costruzione della villa. E diciamo che questo povero Egidio ogni tanto si prendeva delle sgridate dal fratello perché le cose non andavano o abbastanza veloce o non andavano come voleva lui, e quindi nelle lettere ogni tanto traspare appunto Questo questo rapporto rapporto, un po' complicato di sì. Alberto, che comunque era molto esigente, e infatti ogni tanto sono anche degli aneddoti piuttosto divertenti che adesso No, non raccontarci non voglio tutto. raccontare, però appunto in quel caso purtroppo abbiamo solo le lettere che Alberto ha scritto ad Egidio e non le risposte. Sarebbe stato interessante avere anche le risposte per vedere un po' come Egidio si giustificava di fronte a certe critiche ricevute. Non te lo faccio raccontare perché secondo me è un aneddoto molto simpatico e sta bene nella conferenza vera e propria che faremo prima o poi, ma c'è una di queste risposte che Alberto fa al fratello dove gli riscrive solo no, no perché. Esatto, lì era più, non era, diciamo che senza entrare appunto nei dettagli, Egidio aveva chiesto un parere a suo fratello per un investimento che doveva portargli molto denaro, e appunto Egidio aveva specificato questo investimento nella sua lettera, chiedendo al fratello: fammi sapere cosa ne pensi. E il fratello, chiaramente leggendo la lettera e le spiegazioni, ha semplicemente mandato un telegramma a Carigliano scrivendo no. No, perché poi ce la racconterai bene, ma era un po' uno scam dell'Ottocento, una truffa dell'Ottocento che gira ancora oggi in versione moderna e che Esattamente, molto sì. simpaticamente girava già all'epoca, insomma, cambiando poi personaggi, ma Esattamente, che sì. scoprirai questa cosa dal vivo, ce la Sono racconterai. esattamente delle truffe che si potrebbe dire che sono vecchie come il mondo, perché ed infatti Egidio ha rischiato di cascarci e diciamo suo fratello Alberto ha cercato di persuaderlo a non lasciarsi A lasciar stare, insomma, coinvolgere esatto. in questo racconto, in questo affare che comunque semplicemente leggendo la descrizione nelle lettere, perché alla fine lo scambio dura comunque su 4-5 lettere, si capisce semplicemente leggendo la descrizione fatta da Egidio che era una Non truffa. era un affare di quelli No, buoni, però è esattamente. uno di quegli episodi che mostra molto bene la differenza caratteriale tra i due Esatto, fratelli sì. e questi rapporti che proseguono sulle generazioni nella Esatto. famiglia Peri. E comunque sì, quello che è interessante di Alberto è che tra le lettere che ha scambiato con il padre e le lettere che ha scambiato con il fratello, abbiamo comunque una corrispondenza che copre quasi tutta la sua vita, se escludiamo dalla sua nascita ai suoi 19 anni, che Fino comunque. all'emigrazione, più o Però a meno. partire dal momento in cui è emigrato in California fino a qualche anno prima della sua morte, abbiamo delle lettere che spiegano un po' gli stadi della sua vita Quindi un anche. fondo molto completo dal punto di vista delle risposte, delle lettere Esatto. inviate e ricevute, ma anche Sì. cronologicamente della vita del personaggio principale. Esatto. Va bene Stefano, grazie mille per questo aperitivo Niente. culturale. Speriamo di riuscire a fare la conferenza il prima possibile Speriamo, e ai non vedo nostri l'ora. soci che ci ascoltano e a chi ascolterà questo aperitivo, se avete qualche domanda, di prepararla, di inviarla anche al sito web della Società Storica, info@societastoricalocarnese.ch, che verranno passate al nostro conferenziere che sarà felice di illuminarvi a tu per tu, insomma. Grazie Ci proveremo in ogni caso. mille, intanto Grazie a buona te. continuazione e buone feste a Altrettanto, tutti. buone feste.